puoi abbattere se non ne conosci la gioventù, non danno i frutti sperati, niente fiori colorati, ma danno ossigeno alla vita sui dirupi del mondo. Così ci sono persone che nel profondo del silenzio, con viaggi lunghi e rubati, si troveranno di fronte a te, avranno fronti sudate e facce di denti bianchi che danno ossigeno alla vita ai confini del mondo. Già diretta a nord, non resta che lasciarsi andare al dolce dondolio del mare, alla tempesta di tante ore, come se fosse